البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها. Buongiorno Palestina. Tutte le settimane alle 17:30 su Radio Wombat. Su sollecitazione delle diverse forze politiche e di soggetti della società civile è in atto da tempo presso il Comune di Firenze un dibattito sulla questione israelo-palestinese e sui temi quali antisemitismo e antisionismo. La tematica viene dibattuta preliminarmente nell'ambito della Commissione Consiliare 7, che si occupa di pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione, la quale ha dato luogo ad una serie di audizioni di soggetti competenti per ruolo ed esperienza. Nell'ambito di queste audizioni è stato invitato Monio Vadia, uomo di teatro, attivista per i diritti civili e sociali e profondo conoscitore della cultura ebraica. Monio Vadia, nel suo intervento in commissione, ha tracciato un quadro di ampio orizzonte culturale e politico. Si tratta di un intervento i cui contenuti riteniamo utile vengano conosciuti e adesso abbiamo dedicato questa trasmissione. Ascolterete l'intervento di Monio Vadia subito dopo la selezione stampa a cura di Amicizia Italo-Palestinese e un breve stacco musicale. Buonasera, io sono Leo con la selezione stampa della Palestina di questa settimana. Il primo contributo ha il titolo l'ANP si apre a Biden, ma i palestinesi non si fidano. È un articolo di Michele Giorgio sul Manifesto e sul sito della Nena News. Dopo 4 anni di scontri con Trump, l'anziano presidente Abu Mazen spera di voltare pagina con l'amministrazione Biden. Tutti, o quasi tutti, hanno applaudito alla sconfitta di Donald Trump. Sulla vittoria di Biden, invece, i palestinesi nei territori occupati sono divisi nelle analisi e nelle aspettative. Non si aspettano cambiamenti di rilievo dalla futura amministrazione, ma si augurano che si riprendano i finanziamenti USA ai progetti umanitari e all'Agenzia dell'ONU per i profughi. La gente di Gaza, invece, è disillusa. Biden non muoverà un passo per por fine al blocco israeliano. Il secondo articolo ha a che fare con la Germania. Il titolo: distrarre dal vero antisemitismo. Proibito criticare Israele. È di un certo John Litten del giornale Junge Welt. L'applicazione della definizione dell'IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, ne abbiamo già parlato, di antisemitismo, si sta diffondendo in Germania e discriminando gli attivisti antisionisti tedeschi, ma anche quelli ebrei. La confusione voluta antisemitismo-antisionismo continua e proibito criticare Israele. E questo è successo tra l'altro a Francoforte, quando l'organizzazione Free Palestine Francoforte è stata dichiarata come antisemita dal secondo sindaco. E poi l'iniziativa Free Palestine Francoforte ha esposto denuncia perché dice: noi non siamo antisemiti, noi critichiamo Israele. E soprattutto il slogan che ha usato questa organizzazione, From the River to the Sea, Palestine will be free, ossia dal fiume al mare la Palestina sarà libera, il vecchio slogan dell'OLP è stato definito come antisemita. Altri episodi sono avvenuti a Berlino e in altre città, per esempio della Germania dell'Est, soprattutto attaccando israeliani che vivono in Germania e che sono molto critici nei confronti di Israele. Ne parleremo anche la settimana prossima. Il terzo articolo, Maher al-Avras interrompe il suo sciopero della fame. C'è un contadino di 49 anni, prigionieri da quasi 4 mesi, questo Maher al-Avras, che ha deciso interrompe il suo sciopero della fame, concordando con le autorità di occupazione, ma c'erano anche terzi che stavano dietro questo accordo, come scrive e trasmette la TV Al-Ahmar e Al Jazeera. Ma in questo caso, siccome il signore stava quasi per morire, dopo più di 100 giorni, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi, Michael Link, ha chiesto ad Israele di rilasciarlo immediatamente e por fine alle detenzioni amministrative. Perché lui era nella cosiddetta detenzione amministrativa, una disposizione che permette ai sionisti di tenere palestinesi senza accusa o processi con periodi fino a 6 mesi rinnovabili a tempo indeterminato. Abbiamo un articolo interessante di Amira Haas sulla rivista internazionale di fine ottobre che parla di una ragazza di Hallel Rabin che doveva arruolarsi. Invece, siccome lei viene da una comunità antroposofica, si rifiuta a prestare servizio militare. Lei poteva tranquillamente cercare una via d'uscita diversa, per esempio far finta di essere religiosa o di essere affetta di qualche disturbo. Invece lei chiede espressamente che l'esercito israeliano riconosca la legittimità della sua obiezione di coscienza, che non è possibile in Israele. Così si è presentato già la terza volta, sempre rifiutandosi di arruolarsi, e già la terza volta è stata imprigionata per una o due settimane, e la cosa andrà così avanti. E scrive alla fine Amira Haas: questa ragazza ha il coraggio di rifiutarsi. Sarebbe bello che ci fossero più persone come lei in Israele. E alla fine un articolo di Antonio Mazzeo sul sito Nuovo Soldo: arriva il vaccino anti-Covid in Israele, lo produce l'Istituto di Ricerca delle Armi Chimiche e Biologiche di Israele. Con il suo nome BreLive c'è questo nuovo vaccino contro Covid-19 che viene annunciato il 6 di novembre, viene somministrato sperimentalmente in Israele su 80 volontari di età compresa tra 18 e 55 anni nell'ospedale El Keren dell'Università di Gerusalemme e presso il Medical Center di Ramat Gan in Tel Aviv, e tutti naturalmente in Israele sperano che abbia successo questo vaccino. Questa è stata la rassegna stampa, la selezione stampa di questa settimana. Per approfondimenti andate sul sito della nostra associazione amicizia-italo-palestinese.org. Ci sentiamo la settimana prossima. Thank you. Grazie, grazie dell'invito e ho apprezzato moltissimo poter dire la mia, diciamo, perché spesso non mi è concesso neanche di parlare. Come voi sapete, io sono ebreo, ho dedicato la gran parte della mia vita di adulto al tema della memoria, alle culture del popolo ebraico. E quindi figuriamoci se l'antisemitismo posso non considerarlo una cosa ripugnante e condannabile. Ma qui c'è un problema. Il problema non riguarda l'odio contro gli ebrei. Il problema qui è, questo è, secondo me, se posso dirlo, nessuno si offenda, è capzioso e pretestuoso. Perché è stata fatta una vastissima operazione per, usando lo strumento dell'antisemitismo per criminalizzare le critiche alle politiche dei succedutesi governi israeliani di oppressione del popolo palestinese, colonizzazione delle sue terre legittime, alla legge promulgata ultimamente dello Stato-nazione, che è una legge che non si può non definire razzista, perché dichiara che gli unici cittadini dello Stato di Israele sono gli ebrei, e in Israele ci sono quasi 1.800.000 arabi palestinesi con passaporto israeliano. Quindi si crea una discriminazione fra cittadini dello stesso Stato. Le mie critiche, che sono molto aspre, molto dure, prendono spunto sempre da fonti israeliane, giornalisti del quotidiano Haaretz, pubblicato in Israele da un editore israeliano, letto da lettori israeliani e pubblicato in inglese in tutto il mondo. In particolare il giornalista Gidon Levi e la giornalista Amira Haas. Ma faccio riferimento anche ad associazioni per i diritti civili israeliani come quelle B'Tselem, diretto da Hagai Eldad, che ha tenuto una memorabile prolusione all'ONU. Allora, sull'odio per gli ebrei, gli stereotipi, io sono d'accordo con la dichiarazione, ma sulle critiche al governo di Israele è molto generico quello che dice la dichiarazione. Molto generico e dà adito a confusione. Vorrei segnalarvi che per le mie critiche al governo di Israele io sono stato minacciato di morte. Non posso attraversare il ghetto, il quartiere del ghetto a Roma. Sono stato ripetutamente minacciato. Non solo, gli insulti che ho ricevuto sono irriferibili, ve ne dico uno pittoresco che ho ricevuto. Peccato che i tuoi genitori non sono morti nella Shoah, così non nascevi. Questo, nessuno parla invece di quella forma di discriminazione, di pararazzismo nei confronti di coloro che sostengono i diritti legittimi del popolo palestinese secondo la legalità internazionale. Cioè, secondo le risoluzioni dell'ONU 242-33. Allora, Israele non ha cessato nel corso di tutta la sua esistenza di violare sistematicamente queste risoluzioni. Allora io non capisco perché non vengano condannati costoro che criminalizzano, minacciano di morte, maledicono persone che svolgono una legittima critica alle politiche di governi e diciamo, non tanto allo Stato di Israele, ma proprio alle politiche dei governi e dell'autorità militare. C'è stata all'ONU la commissione Falk, anche lui è ebreo, che ha accusato di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, il governo e l'autorità militare israeliana. Falk è stato criminalizzato in tutti i modi e gli Stati Uniti e Israele insieme hanno bloccato le risultanze della commissione. Quindi il vero tema oggi è questo. Io so che ci sono forme di antisemitismo, le conosco molto bene perché le ho studiate nel corso di tutta la mia vita. Ci sono anche forme di antisemitismo in certe formazioni della sinistra. Era già stato il fenomeno analizzato dal fondatore dell'Unione Sovietica, Vladimir Ilyich Lenin, in un memorabile discorso del 1914 contro l'antisemitismo. Lenin, prendendo a prestito una dichiarazione di Bebel, definiva l'antisemitismo di certe sinistre il socialismo degli imbecilli. Quindi so molto bene tutte queste cose, le conosco nei dettagli, però ciò che non è conosciuto alla più parte della gente è la situazione del popolo palestinese. È in Italia impossibile convocare una discussione, un incontro sui diritti del popolo palestinese, sulle condizioni del popolo palestinese, sulla questione israelo-palestinese, senza che le dirigenze delle comunità ebraiche, le quali in questo caso, lo dico all'amico carissimo, per me è come un figlio, il presidente Fink, arrivano, era presidente delle comunità ebraiche, comportandosi come uffici diplomatici del governo di Israele. Non capisco perché, visto che lo Stato di Israele ha le sue ambasciate e i suoi consolati, per impedire la riunione. Tutte le nostre riunioni vengono boicottate, togliendoci le aule all'ultimo momento. C'è un'attività di vera e propria persecuzione nei confronti delle persone che alzano le loro voci, lo ripeto, per difendere i legittimi diritti del popolo palestinese, non contro gli ebrei né contro gli israeliani. Allora, questo è un fenomeno gravissimo che andrebbe rubricato come fenomeno specifico e dovrebbe essere anche condannata la strumentalizzazione dell'immenso crimine dell'Olocausto, della Shoah, per impedire alle persone di esercitare il loro diritto di libera parola nei confronti di questa questione, di questa vexata questione. Io sono stato nei territori palestinesi, io parlo per cognizione di causa, non mi invento cose. Allora, ci sono, lo ripeto, moltissimi israeliani, certo minoranza, che hanno condannato anche più duramente di me, eppure vivono in Israele, si dichiarano israeliani, le loro famiglie sono in Israele. Quindi io credo che andrebbe contestualmente inserita quella dichiarazione anche una dichiarazione di condanna senza se e senza ma della criminalizzazione delle critiche legittime nei confronti delle politiche dei governi di Israele e dell'autorità militare israeliana. Poi mi stupisce l'assenza di una di una denuncia penale della ziganofobia, che è fenomeno assai più grave dell'antisemitismo oggi, senza negare che ci sia. Secondo, pretendo che qualcuno mi spieghi perché il primo ministro dello Stato di Israele attuale, il signor Benjamin Netanyahu, intrattenga rapporti cordiali, amichevoli e di mutuo scambio con un notorio antisemita dichiarato, cioè il primo ministro dell'Ungheria Orban, che ha fatto governi con formazioni politiche, mi riferisco allo Jobbik per esempio, una formazione che ha l'antisemitismo nel suo programma politico, oltre che alla ziganofobia. Allora bisogna che non si mesti, pur dicendo io che l'antisemitismo va condannato senza sì e senza ma, questo nulla a che vedere con le critiche legittime e sacrosante alle politiche, lo ripeto, insisto, del governo di Israele e anche analisi teoriche di come il movimento sionista nasce e di come poi si articola e quali sono quelle che io considero le sue ultime totali degenerazioni in un nazionalismo declinato con un fanatismo religioso senza limiti. Vi segnalo che da fanatici religiosi è stato picchiato un uomo di 77 anni, il maestro Daniel Barenboim, che è cittadino israeliano e che è un grande sostenitore dei diritti del popolo palestinese, tanto che ne ha anche, diciamo, la cittadinanza formale della data dall'autorità nazionale palestinese. Allora, vorrei dire questo, e quindi ci sono molte ambiguità su questa questione. Queste ambiguità vanno sciolte, e se voi attiverete una commissione, non chiamate Monio Vadia, che è un teatrante, ma dei seri studiosi, fra cui studiosi israeliani come per esempio lo storico dell'Università di Tel Aviv, Shlomo Zand, che ha scritto due libri, vi dico solo i titoli, voi capirete. Shlomo Zand, storico rigorosissimo, ha scritto un libro intitolato L'invenzione del popolo ebraico e l'invenzione dello Stato di Israele. Naturalmente sono titoli provocatori, intendetemi, per smontare tutti i mitologemi, tutte le false credenze a sostegno di questo. E finisco dicendo che quando c'è stato l'orribile attentato a Parigi, al Bataclan, il locale frequentato da tanti giovani dei miei nipoti, sono scampati per miracolo a quell'attentato, e al supermercato Kasher a Parigi, Benjamin Netanyahu è andato alle celebrazioni e ha detto che era bene che gli ebrei francesi andassero tutti in Israele perché non erano sicuri in Francia. La prima reazione, la più furiosa, è stata quella del rabbino capo di Francia, durissima. Allora, bisogna anche che tutti voi sappiate che una parte degli ebrei non è israeliana e non vuole neppure esserlo. Sono ebrei anche loro. Non si può omologare tutto l'ebraismo allo Stato di Israele, che ha la sua piena legittimità, naturalmente ci mancherebbe, la piena legittimità, però nei suoi confini stabiliti dalla legalità internazionale, non dove decide lui, nei legittimi confini stabiliti non da Moni Ovadia o dai comunisti, ma dalla legalità internazionale. Allora, o la legalità internazionale vale per tutti, è giusto quello che dice la commissione di cui voi volete così ratificare il documento, quando dice il diritto all'autodeterminazione. Certo, vale per tutti, anche per il popolo palestinese. I governi israeliani lo stanno negando sistematicamente da sempre. Allora, il problema è questo: non si possono analizzare le cose vedendo solo un lato della medaglia, bisogna vedere anche l'altro, e bisogna farlo con coraggio. Io, ultimo, voglio farvi un appello. Io ho subito pesanti discriminazioni per essermi espresso liberamente su questa questione. Il mio lavoro è diminuito, si mandano anche lettere addirittura fuori dall'Italia da parte di alcuni individui che si dichiarano ebrei e non sanno più neanche cos'è l'ebraismo, contro la mia persona per discriminare la mia attività. Ecco, allora, io sono ebreo, sono cittadino europeo, rispetto gli israeliani, ho amici carissimi, ma non sono israeliano e non voglio essere israeliano. Come? Ci sono tanti cittadini italiani negli Stati Uniti che sono di origine italiana, ma sono cittadini statunitensi, sono contentissimi di essere quello che sono e non vogliono diventare cittadini italiani. Allora, io sono un uomo che, proprio in generale, questo non solo riguardo Israele, considera il nazionalismo la più grande pestilenza della storia dell'umanità, anche perché è il nazionalismo nella sua forma estrema che ha fatto i più grandi stermini di ebrei. Quindi io non posso accettare nessun nazionalismo, neanche se è ebraico. Per me nazionalismo ebraico è un ossimoro mostruoso. Ecco, e qui concludo. Scusate la mia radicalità, ma sono fatto così. Grazie di cuore. Riprendiamo la seconda parte dell'intervento di Moni Ovadia subito dopo un breve intervallo musicale. Io riconosco che dietro a diciamo a istanze di antisionismo da parte di alcuni si cela la vecchia diciamo la vecchia cloaca antisemita, è vero, però allora ci si rivolga contro costoro. Invece, e qui voglio dire al consigliere Coccolina che una cosa sono le dichiarazioni, un'altra cosa è la realtà dei fatti. Pur avendo apprezzato il suo equilibrio, però io vorrei farle notare una cosa, consigliere. Gerusalemme non è la capitale di Israele secondo la legalità internazionale. Quindi è un abuso della legalità internazionale dichiararla univocamente tale. Israele, quando nacque nel 1947, volle la sanzione dell'ONU e l'ebbe con la risoluzione 181 che dichiarava l'esistenza dello Stato israeliano entro certi confini. Va bene. Ora, non si può una volta volere l'ONU e la volta successiva dire Dio ci ha donato questa terra. Volevo dire anche alla precedente consigliera di non essere così cauta. Si capisce già da come parla che lei non ha sentimenti di ostilità. Comunque, volevo dirle, non si può mescolare attraverso una ideologia che si chiama essenzialista, alla ricerca di mitologemi, noi eravamo qui, il re Davide, il re Salomone, perché noi siamo una civiltà che è entrata nella cultura della legalità internazionale, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Non si può fare come ti comoda. Contesto in questo l'amico fraterno figlio Enrico Fin quando dice che le comunità sono comunità religiose, perché allora non si capisce perché a ogni singola manifestazione di discussione sulla questione israelo-palestinana e il palestinese intervengano per bloccarla. Perché? Visto che non sanno ancora cosa si dirà e a priori intervengono. Allora, questo non è vero, forse è vero per la comunità di Firenze, per qualche altra comunità, ma non generalmente. Terzo, nel 2014 300 fra sopravvissuti all'olocausto ebrei e loro figli comprarono una pagina del New York Times, 300 fra sopravvissuti e i loro figli, per condannare la politica del governo di Israele con parole al confronto delle quali le mie sembrano acqua fresca. Eppure erano sopravvissuti all'olocausto. Vale per esempio per il grande studioso Norman Finkelstein, i cui entrambi i genitori furono nei lager, il padre a Auschwitz, la madre a Majdanek, e che è il più duro critico della strumentalizzazione dell'olocausto. Quindi, intendiamoci, noi chi definisce i limiti delle critiche alla politica del governo di Israele? Chi è l'autorità sovrana che lo fa? Allora, io credo che ci siano delle leggi. In Italia l'antisemitismo è rubricato come reato penale. Però, secondo il luminoso esempio del primo emendamento degli Stati Uniti d'America, tu non puoi essere fermato né condannato prima di aver parlato. Poi, se tu hai fatto atto di antisemitismo, ci sono i tribunali per questo. Non si possono fermare a priori manifestazione di espressione del pensiero. Dopo avere manifestato. In un paese in cui si lasciano nazisti e fascisti fare le loro gazzarre pubbliche tranquillamente e gridare onore al Duce, un criminale di guerra, assassino di italiani, che ha mandato a morire gli ebrei dopo aver irriso le teorie naziste nel 1934. Allora, loro possono andare con i simboli, fare quello che vogliono. Una persona come me, per dire quello che dico, viene minacciata di morte, maledetta e insultata. Attenzione, è stato perfino aperto un sito che si intitolava Uccidiamo Moni Ovadia. Poi è stato chiuso dalla polizia, va bene. Però bisogna prima di tutto sgombrare tutte le ambiguità e le strumentalizzazioni. E allora io trovo che quello che ha detto la Presidente Bianchi, quello che ha detto la consigliera Bundu, non so se il suo titolo è questo, io trovo che prima si debba avviare una fase di studio seria con esponenti, affrontare il tema dell'antisemitismo, dell'antiziganismo e anche affrontare il tema di qual è il limite diciamo antisemita alla critica dello Stato di Israele. Perché se uno dice, faccio un esempio consigliere Coccolini, faccio un esempio, se uno dice beh guarda gli cosa fa Israele contro i palestinesi, beh si sa, tanto gli ebrei sono tutti dei criminali, questo è antisemitismo, ne convengo anch'io. Ma se uno chiede il rispetto dei diritti del popolo palestinese, condanna come colonialismo quello che Israele ha fatto mettendo 750.000 coloni in terre non sue, non vedo dove stia l'antisemitismo. E secondo, quella legge Stato-Nazione discrimina i palestinesi e va condannata come razzismo. Lo ha detto, ripeto, diversi israeliani, fra cui il giornalista Guido Levi, che segnalo per conoscere certe cose, ha detto, ha scritto un articolo, io ce l'ho, li conservo tutti, bene, grazie alla Corte Costituzionale israeliana, Israele ha le sue brave leggi di Norimberga. Ora, capisco che molti possano essere feriti da un'espressione così, ma come definiamo il fatto di dire gli unici cittadini veri di Israele sono gli ebrei e gli altri cosa sono? Cittadini di serie B, C, D, eccetera. Questo non è razzismo? Questa non è discriminazione? Questa non è segregazione? Allora, faccio l'ultimo esempio e mi taccio. Per combattere le leggi sull'apartheid dello Stato del Sudafrica fu fatto un boicottaggio durissimo contro Sudafrica, ma nessuno chiedeva la cancellazione dello Stato del Sudafrica. Si chiedeva che cessasse una politica che era contro i diritti umani che stanno soprattutto prima dei governi, prima delle nazioni, prima di qualsiasi cosa, perché è su quello che si fonda una civiltà. Tra l'altro io non sono religioso, io identifico, cioè io sono ebreo, molto ebreo, nella spiritualità e nella grande eredità della, diciamo, del pensiero ebraico, non definisco neanche filosofia, Enrico Finn mi capisce. Però, ripeto, per me come essere umano, ricordo a tutti, anche per gli ebrei, prima vengono gli esseri umani, dopo gli ebrei, perché la Bibbia comincia dal Genesi, non comincia da Abramo. Quindi, come essere umano io faccio riferimento ai diritti universali dell'uomo. Come cittadino italiano faccio riferimento alla Costituzione Repubblicana, che per me è un documento sacro. Come ebreo faccio riferimento alla Torah, al Talmud, alla Kabbalah e all'insegnamento dei grandi maestri del pensiero di Israele. Il governo di Israele, le sue politiche con l'ebraismo non c'entrano una mazza, scusate. Quindi io nei confronti del governo di Israele, dell'autorità militare, delle sue politiche, io esprimerò le critiche più dure, perché per me questo non c'entra con me. Le farò, dirò, veramente finisco, consigliere Coccolini, che esistono degli ebrei ortodossi, Boccoli, Riccioli, eccetera, che hanno cartelli, quando loro fanno manifestazioni in pubblico, con su scritto Free Palestine, liberate la Palestina. eppure sono ebrei ultraortodossi e per di più conservatori. Quindi noi dobbiamo sgombrare il terreno da questa cosa. Tutte le critiche al governo di Israele, all'autorità militare, io non dico allo Stato, va di bene, parlo di governo e autorità militare, sono legittime. Quelle che celano l'antisemitismo vanno denunciate e scovate, ma va provato che è antisemitismo. Non si può dichiararlo a priori. Io devo vedere uno, si deve ravvisare la pandemia antisemita dietro le espressioni che condannano ideologie o cose. Non si può dire questo. Invece, le dirò una cosa, è oramai diffuso che chiunque critichi Israele sia un antisemita e il presidente Fink lo sa molto bene questo, perché ci sono appena, non tutti gli ebrei naturalmente delle comunità, né tutti gli esponenti delle comunità. Io ho amici che dissentono da me e io sono pronto al dissenso, anche più duro, ma però che alla fine del dissenso mi abbracciano e mi dicono: io comunque ti voglio bene, siamo esseri umani prima di tutto. E le dirò, mi è capitato con due israeliani che mi hanno riconosciuto, mi hanno fatto una grande festa e poi mi hanno detto: ah, signora Vabbia, lei è un uomo fantastico, che peccato che non stia dalla nostra parte. E io sorridendo ho detto: che peccato che voi non siate dalla mia. Allora abbiamo discusso per una ventina di minuti e poi ci siamo salutati abbracciandoci, non c'era il Covid. E quindi io non ho sentimenti di odio per nessuno, ma consigliere Coccolini, la prego come essere umano a essere umano, si informi sulla tragedia del popolo palestinese e chieda un giorno che anche i reati contro il popolo palestinese vengano condannati come atti razzisti. Grazie. Prima della consueta rassegna musicale, vi ricordiamo che la campagna Stop the Wall continua sul web e i prossimi appuntamenti sono previsti per il 21 e il 26 di questo mese. Troverete tutti i link necessari sul blog di Buongiorno Palestina su Radio Wombat. La rassegna musicale di oggi, di cui avete già ascoltato due brevi parti, è composta da un solo brano musicale, ma si tratta di un'interpretazione magistrale della famosissima cantante Umm Kulthum, cantante che è stata anche musicista e attrice egiziana, tra le più celebri e amate in Egitto e anche in tutto il mondo arabo. I suoi album sono ancora oggi tra i più venduti nel mondo. A voi Umm Kulthum in Arf Leila Ue Leila, e cioè Le Mille e Una Notte. Augurandovi buon proseguimento di ascolto su Radio Wombat, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! Habibi. يا حبيبي يا حبيبي اللي نور السماء ونجوم وقمر وقمر وصغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. Sorry.